Filippo Verlasso, presentazione ufficiale della nuova stagione del Teatro Celebrazioni, grandi ritorni ma anche tante cose nuove. Che cosa, come l'avete preparata questa stagione? Qual è un po' il fil rouge? L'abbiamo preparata concentrandoci come sempre sul nostro pubblico, un pubblico che negli anni si è dimostrato un pubblico eterogeneo, diversificato. Abbiamo stimolato i più giovani e c'è stato un grande successo, quindi troverete una stagione che parla a tutti, estremamente eterogenea, diversificata, perché proprio ha l'intento di presentarci con spettacoli di qualità, ma ovviamente di parlare a tutte le generazioni. Questo ci hanno definito un teatro inclusivo. Mi piace perché indica la trasversalità di genere dei linguaggi artistici che Celebrazioni ha. E lo fa sempre nella sua chiave, con la sua C del logo, che è anche di contemporaneo. Cosa vuol dire? Vuol dire raccontare le storie dell'oggi, raccontare delle storie in cui il pubblico si può riconoscere. E la cosa bellissima è tanti appuntamenti per i più piccoli, con spettacoli pensati per le famiglie, che l'anno scorso sono andati benissimo, tanti appuntamenti anche per i teenager, per le nuove generazioni, la next generation, con tanti artisti, tanti influencer credibili, seri, che dal web arrivano e raccontano le loro storie direttamente sul palcoscenico. E la vera magia è che i ragazzi più giovani in quel momento lì spengono il cellulare e ascoltano e ricevono un messaggio, ricevono una storia, ricevono un'emozione. Questa è una cosa che per noi è preziosa. È preziosa perché il teatro è anche quello, è vivere una storia e immergersi in quello che vivi. Quindi siamo molto contenti. Dicevo prima dei dati, uno dei primi teatri in Italia, 105.000 spettatori hanno varcato, e noi quest'anno abbiamo l'onere, l'obbligo e la voglia di riconfermare questo bellissimo risultato, ringraziando sempre il nostro pubblico per l'attenzione. Un altro momento in cui il teatro si fa contenitore di cultura non prettamente teatrale è la sezione Riflessi. Sì, Riflessi, abbiamo questi grandi professionisti che hanno cominciato a raccontare delle storie trovando grande attenzione da parte del pubblico. Ne citiamo alcuni: il professor Massimo Recarcati, psichiatra, che racconterà ovviamente le storie o le dinamiche che accadono all'interno della coppia, in un rapporto amoroso. Abbiamo la criminologa Roberta Bruzzone, che avrà due appuntamenti dove appunto racconterà degli episodi crime, atti documentali, atti del tribunale. Stefano Fresi con questo Diogene, una rivisitazione del filosofo greco, dove andrà a indagare l'animo umano di ieri e di oggi, no? Cercando, spogliandosi di tutto il superfluo per indagare sul senso della vita, quindi anche in un gioco, in un rapporto aperto con il pubblico, quindi tematiche molto interessanti e molto accattivanti per il pubblico. E ci sarà anche il ritorno di Umberto Galimberti, che diciamo è stato uno degli ospiti, il filosofo, uno degli ospiti principali della scorsa stagione, con dei tutti esauriti insieme al professor Crepè, che torna dopo il grande successo dell'anno scorso. Grazie. Grazie a voi.